Capitolo 28. Allora Isacco chiamò Giacobbe, lo benedisse e gli diede quest'ordine: non prendere moglie tra le donne di Canaan. Parti, vai a Padaram, la casa di Betuel, padre di tua madre, e prendi moglie là, tra le figlie di Labano, fratello di tua madre. Il Dio onnipotente ti benedica, ti renda fecondo e ti moltiplichi, in modo che tu diventi un'assemblea di popoli, e ti dia la benedizione d'Abramo, a te e alla tua discendenza con te, perché tu possieda il paese dove sei andato peregrinando, che Dio donò ad Abramo. Isacco fece partire Giacobbe, il quale andò a Padaram da Labano, figlio di Betuel, l'arameo, fratello di Rebecca, madre di Giacobbe e di Esaù. Esaù vide che Isacco aveva benedetto Giacobbe e l'aveva mandato a Padaram perché vi prendesse moglie, e che, benedicendolo, gli aveva dato quest'ordine: non prendere moglie tra le donne di Canaan, e che Giacobbe aveva ubbidito a suo padre e a sua madre ed era andato a Padaram. Esaù comprese che le donne di Canaan non erano gradite a suo padre Isacco. Allora andò da Ismaele e prese per moglie, oltre quelle che aveva già, Maalat, figlia di Ismaele, figlio d'Abramo, sorella di Nebaiot. Giacobbe partì da Beersheba e andò verso Caran. Giunse ad un certo luogo e vi passò la notte, perché il sole era già tramontato. Prese una delle pietre del luogo, se la mise per capezzale e lì si coricò. Fece un sogno. Una scala poggiava sulla terra, mentre la sua cima toccava il cielo, e gli angeli di Dio salivano e scendevano per la scala. Il Signore stava al di sopra di essa e gli disse: «Io sono il Signore, il Dio d'Abramo, tuo padre, il Dio di Isacco. La terra sulla quale tu stai coricato, io la darò a te e alla tua discendenza. La tua discendenza sarà come la polvere della terra, e tu ti estenderai a occidente e a oriente, a settentrione e a meridione, e tutte le famiglie della terra saranno benedette in te e nella tua discendenza. Io sono con te, e ti proteggerò dovunque tu andrai, e ti ricondurrò in questo paese, perché io non ti abbandonerò prima di aver fatto quello che ti ho detto». Quando Giacobbe si svegliò dal sonno, disse: «Certo il Signore è in questo luogo e io non lo sapevo». Ebbe paura e disse: «Com'è tremendo questo luogo! Questa non è altro che la casa di Dio, e questa è la porta del cielo». Giacobbe si alzò la mattina di buon'ora, prese la pietra che aveva messa come capezzale, la pose come pietra commemorativa e vi versò sopra dell'olio. E chiamò quel luogo Betel, mentre prima di allora il nome della città era Luz. Giacobbe fece un voto dicendo: «Se Dio è con me, se mi protegge durante questo viaggio che sto facendo, se mi dà pane da mangiare, vesti da coprirmi, e se ritorno sano e salvo alla casa di mio padre, il Signore sarà il mio Dio, e questa pietra che ho eretta come monumento sarà la casa di Dio. Di tutto quello che mi darai, io certamente ti darò la decima».